se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. No, oh, che sbadato. Con voi bisogna precisare di quale menzogna si parla. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. Il primo messaggio è di rispetto e di gratitudine verso i medici, anche del pronto soccorso di Nola. E qui strumentalizzazioni, cialtroneria, finte solidarietà, pagliacciate di tutti i tipi. Chiarisco per l'ennesima volta che quelli che governavano il pronto soccorso di Nola erano tutti i dirigenti che abbiamo trovato lì, non li ho nominati io. Qualcuno ha avuto anche la faccia di bronzo di creare equivoci anche su questo. No, quelli stavano lì. Addirittura il responsabile sta da 10 anni. Che non hanno fatto niente per tutti questi anni per rendere accettabile la vita e il lavoro dei medici nei pronto soccorsi devono solo stare zitti da Roma in giù. Da Roma in giù. Così parlò De Luca nella sua non intervista, perché non è un'intervista settimanale, all'Ira TV, ma è nei suoi proclami. Andrà a cercare l'inserimento di Chiesa, che prolunga, rete, il raddoppio della Fiorentina. Ah, sei con te? Beh, insomma, De Luca, che ti devo dire? Tutti ammalinni. Tutti a Malindi, va bene, andiamo tutti a Malindi, che dobbiamo si va fare? Lì la mattina, si fa un po' di festa. Perché no, dai, ci divertiamo, ci divertiamo. Allora, De Luca, sei pronto a condurre al spettacolo, che spettacolo. Sì, dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi a far condurre De Luca, io farò il ventriloquo e lui... Sarebbe una goduria. Lo so, caro presidente, lo so. Ma siamo quasi lì, lì. Metteremo a punto questo progetto. Rock duro. Vabbè, dai, cominciamo con Elvis Presley, poi passeremo magari alle Zeppelin, Black Sabbath, così, rock duro, e De Luca che conduce. Hai fatto una nota. Ci siamo quasi, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e poi sarà Vincenzo De Luca a condurre 24 mattino qui al Parlamento. Che spettacolo, che spettacolo. Credo attorno al 20 febbraio riusciremo a porre in essere questo progetto. In una botta sola. Eh sì, così proprio. Evviva! Evviva! Missili termonucleari. Che c'entra questa, Peter? Questa proprio, questa è un po' fuori luogo, è come dire, una barbaria, verrebbe da dire. Sei contento? Allora, insomma, sono contento, è lunedì, si apre la 194esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e quindi siamo qui con 24 mattino, reduci da 4 ore di sonno per lo straordinario successo a Platone, al Manzoni, tutto esaurito, bellissimo. Il 5 febbraio torniamo, 5 febbraio domenica, quindi c'è speranza per tutti. Allora, sono le 6:34 minuti, dobbiamo aprire il Parlamento, vai Peter. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. È tornato Renzi. Per la gioia, io lo sapevo, perché ho delle antenne dritte prima, e abbiamo chiamato la migliore amica di Renzi, Chiara Geloni, che è con noi. Chiaretta, buongiorno. Io lo sapevo, ho detto domenica esce un'intervista. Hai detto tu, ma perché io lo dobbiamo dire agli ascoltatori, io sono stata invitata venerdì, quindi certo, era tutto fatto apposta, ragazzi, con una sapiente regia. Ma siamo veramente nella nazione degli occhio nero, della massoneria, noi sappiamo le cose. Ovviamente non è vero, ma me la tiro così. Ovviamente. Insieme a Chiara Geloni, buon anno ovviamente. A Chiara Geloni, ma se non sbaglio, è Juventina? No. Sì, sono Juventina, sì. No. Infatti sapevi anche questo, mi hai invitato apposta. C'era Renzi in tribuna a esultare per la vittoria dei Viola, vi hanno fatti Viola. Vabbè, insomma, è proprio un destino. Vabbè, adesso per una volta che hanno vinto loro, dai. Sì. No, giustamente fa notare un ascoltatore, ieri è tornato Renzi, poi è stato l'annuncio sabato, è tornato Berlusconi. È l'Italia che va stravanti, è l'Italia. È la rottamazione. Sono i frutti della rottamazione. È la rottamazione. Cara Chiara, ti voglio presentare il nostro avvocato preferito, l'avvocato quasi omonimo. Ecco, vedi, ce l'ho fatta in tutto. Ma ti ho portato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. La I che fa la differenza. La I dell'Italia, la I che salverà l'Italia. Ci ha provato a Roma, ma insomma adesso si candiderà. Rienzi, perché non si candida anche a livello nazionale? Tanto... No, basta, mi sono stufato, non cambia mai niente qui. Renzi Gentiloni, grillo che strillazza e che non combina niente, che fa andare Roma in rovina la sua raggi. Basta, meglio combattere dal basso con i cittadini, otteniamo un sacco di risultati utili, portiamo a casa e poi... Ve li comunichiamo qui in radio. Va bene, ma ce li comunicate, è quello che ottenete. Per esempio, prima cosa che ho trovato, ho pensato subito all'avvocato Rienzi. Guardalo qua, dov'è? Porcaccia miseria, l'ho trovato. Automobilisti, c'è un annuncio da fare anche per chi come donna al volante pericolo costante come Chiara Geloni, no? No, io non ho neanche la macchina. Ecco, appunto, allora sarai molto interessante a questa notizia. L'apertura del giorno, no, non la Fiat, Rienzi, adesso ci arriviamo. Tutor, la multa è un bluff. Pare che chiunque, Peter Pescapè si è svegliato, quante multe hai preso di recente con il tutor? Pare che i tutor siano fuori legge perché se non hanno la taratura annuale fanno tutti ricorso e vincono. Però Rienzi, la questione è, ha fatto ricorso un avvocato ex assessore a Bologna che passava a 160 all'ora in autostrada. Ora dico, ma comunque il fatto che passasse a 160 all'ora è un dato di fatto, peraltro un pericolo per tutti gli altri? Ma sì, queste sono queste notizie, ogni tanto escono per incoraggiare la violazione del limite di velocità. Se vedete la pubblicità, alcuni strumenti, non voglio dire il nome, tutte le mattine sulla Rai si sente prima del giornale radio. Questo sistema vi consente di individuare gli autovelox, i tutor, eccetera eccetera, in modo che potete fregarli praticamente, e questo è un sistema, è tutto italiano, in realtà il tutor funziona benissimo, non ci sono problemi di taratura perché la taratura viene fatta. Ha vinto il ricorso. Ma in qualche caso può essere capitato, non è stata fatta, è un giudice un po' così che forse gli piace correre, ha fatto la sentenza, ma non si sposta il problema. Vabbè, cari automobilisti, dovete continuare a pagare, cari automobilisti. Sapere che c'è tutto ti fa andare piano, non è che dobbiamo pensare a quelli che poi violano, è una prevenzione importantissima, il 90% l'accoglie con piacere, perché si accorge che va più piano e si accorge di fare meno, di rischiare meno la pelle propria e quindi una tragedia in famiglia. Pensavo di darvi una notizia, invece come al solito Chiara Geloni, no, no, sono inutile. E allora, allora niente, torniamo alle cose barbose. Renzi è troppo preparato, Renzi, non ce la puoi fare. Caccia miseria, mi frega, mi ha fregato. Pensavo, no, pensavo così, invece no. Va bene, cara Chiara Geloni, adesso... non è vero che sarà la migliore amica di Renzi, questo l'hanno capito i nostri ascoltatori, eccetera. Però, ma voglio dire, però... no, ma secondo te il renzismo è davvero finito oppure ti dovrai attrezzare? ma guarda, io penso che non sarà mai più come prima, ecco, adesso non sto dicendo che non vedremo più Renzi, che si dedicherà, non lo so, anche lui a cosa, a serate teatrali come te o ad occuparsi della Fiorentina. Beh, questo se, no. se vuole questo a Platone, no, qualche no, volta, io vediamo. Penso che lui ha sempre fatto politica nella sua vita e continuerà a farlo. Quello che è finito è una fase, no, che abbiamo chiamato, come giustamente dicevi tu, il renzismo. Non sarà mai più come prima. Non, lui deve anche capire, io credo, e nell'intervista di ieri non è che ci sia ancora, secondo me, tanto riuscito, che deve riuscire, se vuole rimanere un protagonista, deve cambiare completamente le sue parole d'ordine, perché quelle parole d'ordine che usava funzionavano in una situazione che non c'è più, una situazione in cui lui era assolutamente centrale, per una serie di coincidenze in parte dovute a meriti anche suoi, in parte sì, all'essersi trovato dentro una specie di tempesta perfetta, quasi senza avversari o comunque senza avversari in grado di candidarsi ad affrontarlo, no, per motivi diversi. E questo non ci sarà più, lui non potrà essere più il leader rottamatore, perché la rottamazione è finita anche un po' malino, e non può dire per il PD servono facce nuove, perché il problema è che nel PD sono venute fuori un sacco di facce nuove, ma alla gente non sono molto piaciute queste facce nuove. Non può dire dopo 4 anni. Insomma, deve cambiare atteggiamento. Fammi finire solo questo. Sì. Non può dire dopo 4 anni vedrò se sono capace di fare il segretario del partito, perché lo è da 4 anni e quindi doveva essere stato già capace. Adesso deve rispondere di come è stato segretario del partito. Non so, vediamo un po' anche per l'avvocato Renzi. Che dice, avvocato? Che torna? Torna? Non alla lo so. Fine si sono, torna io che, sono io che lo chiedo a te. Il problema è la data delle elezioni. Io voglio fare una scommessa con voi che non ci sarà prima che tutti maturino la pensione. Eccolo lì. Allora, 15 settembre, signori. 15 settembre, signori. Fino al 15 settembre. Facciamo una scommessa. Ragazzi, ma siamo ancora a questo livello? Secondo me invece Chiara non ha tutti i torti, no, l'avvocato Renzi. Ma no, lo so che pensi che non ha tutti i torti, ma penso che finché anche noi giudichiamo la politica sempre così, non è che sto dicendo, non so se pensa l'avvocato Renzi, che sia, voglio dire, l'unico ostacolo alle elezioni, ma se succede che serviranno quei 10 voti per tenere in piedi la legislatura, per dire, ecco, si troveranno quei 10. Come magari se ne troveranno altri 10 per degli altri motivi, no? Dopo la Corte troveranno 1000 scuse, perché dicono: allora facciamo la legge, vi presenti il progetto, tu presenti il tuo, lo discutiamo con calma, perché dobbiamo essere democratici, magari sì, perché eccetera, sa, avvocato, eccetera, anche... e così slitta dopo. Anche fare la legge elettorale di corsa, come è stata fatta l'altra volta, non è stata sono anni perché devo aspettare la Corte Costituzionale. Sono anni che di corsa non si fa niente. Non si fa niente. Allora lei. Perché quelle che hanno fatto probabilmente è incostituzionale, quindi se non glielo dice la Corte come devono cambiarla, e poi rischiano di doverla cambiare di nuovo. Come, perché? Mamma mamma, questa è un'altra ragazza che è a favore della poltrona di questi signori. No, delle poltrone, ragazza, un bel complimento. Ragazza, volentieri, ma se vuole parliamo della mia situazione e lei potrà convincersi rapidamente che io non ho nessun interesse a conservare la poltrona di nessuno. Le assicuro. Anzi, magari, magari potendo andare. Quando è cominciata questa legislatura, io non ho guadagnato proprio niente. Anzi, magari niente andare in Parlamento al posto loro farebbe comodo, Chiara. Andare al posto in Parlamento di qualcuno di loro mi farebbe magari anche piacere. Esatto, farebbe anche comodo. No, beh, adesso non è che Rienzi, siccome sostiene la nostra Chiara Ceroni, sostiene che non è che punteranno la pensione, non per questo vuol dire che lei vuole mantenere le prebende dei nostri. Ma come si fa a dire non hanno tempo, poverini, diamogli tempo, ma ci hanno avuto anni per farlo. Poverini io non l'ho detto, scusi, ho detto che sono stati dei pasticcioni che hanno fatto una legge che neanche loro vogliono più e che probabilmente è incostituzionale, quindi stanno aspettando che la Corte glielo dica. Ma invece lo vogliono perché i due partiti di maggioranza, cioè 5 Stelle e PD, la vogliono perché con questo sistema possono dominare tutto. E il referendum e la legge, allora, che insomma, sono sottoposta al referendum, ottenere, era proprio in questa direzione, cioè con perso? Quella riforma costituzionale chi aveva al ballottaggio la maggioranza ma poteva adesso stavamo parlando fare della legge una dittatura. E allora? E quindi facciamo? Quei due partiti perso, sicuramente quindi non la vogliono cambiare. E se non la vogliono cambiare loro due, faranno finta l'uno che l'altro non la vuole cambiare. Insieme la riforma costituzionale, la legge elettorale, le elezioni. L'unica cosa di quella cui dobbiamo essere certi è che pensano ai soldi, va bene? Così ha ragione lei. Vabbè, diciamo che... La riforma elettorale è strettamente legata a quella che era la riforma costituzionale. Diciamo, legge elettorale e quella riforma costituzionale si poteva, chi aveva la forza, cioè o l'uno o l'altro dei due, dominare totalmente facendo le nomine dei giudici della Corte Costituzionale, del CSM. Diciamo che il pensionellum è un qualcosa come ce l'ha definito Forchielli, un pensiero che qualcuno all'interno del Parlamento ce l'ha, ma magari anche legittimo. Ma guardate che non bisogna fare falsi moralisti, ma se qualsiasi italiano fosse in questo momento un deputato e sapesse che al 15 settembre matura un vitalizio, cioè una pensione, poi lo chiamano in modo diverso, ma è un vitalizio, è una pensione. Ma Rienzi adesso obiettivamente, ma lei se fosse nella stessa situazione non punterebbe un po' a dire beh vabbè ma quasi quasi mi mancano 9 mesi? E che vuol dire? Certo che sì, perché l'egoismo allora prevale sull'interesse generale. Dice 8 mesi sono stato qua con il culo sulla poltrona a schiacciare, pigiare i tasti, tanto non conto niente, mi dicono vota sì, vota no, vota boh. Adesso tengo duro 8 mesi, gliela faccio vedere e poi mi becco il vitalizio. Insomma, noi cittadini, siccome ci costa caro, siamo andati già alla Corte dei Conti per dire controllate che questi non facciano i furbi e vadano a slittare dopo la maturazione. Ma anche della tu Rienzi, ma che possono fare? Ma non c'è il vincolo di mandato, ma che vuol dire fare i furbi? Stanno lì, votano, cosa fanno i furbi? Capito, faremo un elenco di quelli che fanno melina in modo che i cittadini possano non votarli più. Chiara, cosa vuol dire fare melina in Parlamento? Cioè girare, non farsi trovare, imbucarsi nei bagni, come fai a trovare quelli che fanno melina, come li definisci? Non lo so. Vabbè, andiamo al traffico, poi scopriamo come fanno melina i deputati. Alino, non si può sentire Renzi al mattino che apre il Parlamento. Dai, basta, toglilo. Ciao Alino, avete voluto votare no al referendum, no alla modernità, no alle variazioni della Costituzione e anche no all'abolizione delle province, quindi smettila, tanto non le aboliranno mai. Ma se domani dovessimo andare al voto, ma chi cazzo votiamo? La verità è che Renzi si muove in una logica chiara in riferimento all'alleanza con Forza Italia. Evitarla se possibile, farla se necessario. Hai capito Alfano, Chiara Ceroni? Evitarla se possibile. Tra l'altro interessante l'editoriale del nostro ascoltatore finale, no? Il dubbio amletico. come dire, ma infatti cercavo di dire che non è detto che l'interesse generale sia andare a votare, perché magari la gente pensa anche di votare, sì, però, però qui dobbiamo anche un attimo capire, cioè noi italiani dobbiamo sempre votare pensando a un volto, a una persona, perché non sappiamo, no, a dei grandi ideali, ma non sappiamo, pensare. Ma no, come ma dai, Renzi, ma dobbiamo pensare agli ideali, ma non abbiamo più un punto di riferimento, ma uno guarda il, dovrebbe guardare il programma del Partito Democratico, di Forza Italia, della Lega, del Movimento 5 Stelle e notare se ci sono delle differenze. Invece no, noi dobbiamo sempre appiccicare il volto, l'uomo, la donna che ci salverà. Figurati, è mai quando abbiamo fatto le lezioni al sindaco non si riusciva a capire la differenza. Quello che poi succede, no, succede che magari io voto il programma del PD, no? Sì? Che mi convince e quelli tantissimo. Ti fanno il programma di Forza Italia. Come gli pare quello che nel programma del PD non c'era. Beh, allora, e allora sai, sì, abbiamo bisogno sempre dell'uomo forte. La donna forte, quella carità. Che ci salverà. Quello che... magari proviamo con la donna. Che... vabbè, la donna, votate Chiara Geloni. Perché... no, non lo so, Renzi, chi dobbiamo votare? Perché c'è questa idea? Chi votiamo? Chi votiamo? Vota una lista, vota un simbolo, vota un programma, vota sì, delle sì, idee, sì. Vota. Però io quest'anno mi astengo. Non voto nessuno, manco i 5 Stelle, manco il PD e manco nessuno. Ma tanto Renzi ha detto che c'è la pensione, si vota l'anno prossimo, quest'anno m'astengo. Quest'anno la pensione si voterà, vedrai, a ottobre, novembre, dopo aver maturato. A Natale. Ah, proprio. Ma allora sono proprio malandrini. Cioè, il 15 settembre dicono votate il 16 settembre. No, che si sciolgono le camere. Sciolgono le camere il 16 settembre. Pensa che bello sgarbo. Hai capito? Vedrai. Abbiamo fatto la scommessa, no? E che abbiamo scommesso? Abbiamo scommesso che se ho ragione io, che so, mi fate una raccolta, mi date un vitalizio. un 20% del vitalizio. Vabbè, ti diamo a te non diamo una percentuale del vitalizio, stai tranquilla. Non mi interessa niente, non voglio sapere. Non vuole, va bene. No, ma scusa, ma poi perché uno che sta 5 anni dentro la Camera, beh, non è giusto che maturi 5 anni certo, di pensione? Certo che è giusto, no. E infatti cioè, oddio, è giusto. La legge. Magari è sbagliata la legge che per 15 giorni magari non gli fa buttare i contributi, scusa. No, magari è sbagliata la legge sul quantum, diciamo, matura per 5 anni, però vabbè, insomma, tanto lo maturerà. La fregatura me la darà la Corte Costituzionale, perché dirà, noi siamo in udienza anche alla Corte, siamo intervenuti nel procedimento, Ma su che cosa? Perché chiede alla Corte di dire subito le modifiche da fare per poter andare a votare con la legge l'Italicum modificato dalla sentenza della Corte, senza dare la scusa di doverla rifare, primo, e secondo che dica che la legge elettorale corretta deve essere fatta con legge costituzionale, perché se no se si può cambiare come si vuole. Con una semplice maggioranza, scusa, possiamo far finire, però sì, se no, sì, dai, ora, se non ci capiamo parlando hai di due, sì. Con una se si può modificare la legge elettorale con una semplice maggioranza del 50% più uno, noi saremo sempre in mano alla maggioranza che potrà prendere il potere assoluto nel nostro paese, come ha tentato di fare con la riforma costituzionale. Chiara, che dici? Ma no, dico che questa è un'associazione di consumatori, se non sbaglio, che presiede l'avvocato Renzi, che vuole dire le percentuali della legge elettorale, a che ora si deve votare, ma che roba è? La tutela dei cittadini passa, la tutela dei cittadini, adesso io lo spiego, perché posso capire, fa ricorsi. La tutela dei cittadini passa innanzitutto attraverso degli strumenti costituzionali che diano ai cittadini il potere che loro, cui loro hanno diritto. Se tu mi modifichi questi strumenti, scusi, la Corte Costituzionale sta prendendo delle decisioni, infatti, come garante dei cittadini. Brava, e noi diamo il nostro contributo nella direzione dei cittadini. Loro sono i super garanti dei cittadini. Ma no, scherziamo, la cosa è molto seria. Tutti danno il loro contributo se possono, i cittadini devono dare il loro contributo. I principali fruitori della legge elettorale sono i cittadini. Da chi sarebbero rappresentati? Io vorrei mettere tutti d'accordo con la frase. Da chi sono rappresentati davanti alla Corte? Aspetta, io vorrei vorrei mettere tutti sentiamo. D'accordo con la frase di Calderoli, che oggi al Messaggero dice, per chiudere questa cosa della legge elettorale, il mio porcellum era il paradiso terrestre rispetto a quello che verrà fuori da questo ircocervo che verrà fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale. Ma insomma, dai, io voglio andare in rapida conclusione, perché voglio ripristinare il nostro premio, dai, su, dobbiamo ripristinarlo. Giachetti ci ha fatto un regalo, lui non lo sa, e noi il premio lo abbiamo istituito e ogni tanto lo tiriamo fuori, eh? Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Allora, i nostri ospiti sono titolati a poter appioppare il premio Giachetti alla persona che secondo loro più si addice a questa, come dire, caro Rienzi, ci siamo capiti, insomma, il premio Giachetti a chi lo attribuirebbe l'avvocato Rienzi? Premio Giachetti? Il premio. A Milan. C'ha la faccia come il culo, e va bene. E me lo prendo e me lo porto a casa, cara Chiara Geloni. Anche amico tu, no? Mio. Due premi faccia da culo. Non no, so se posso. No, ma tu mi inviti il lunedì successivo a una così bella intervista. Porca vacca, sapevo già. Tu sei come Vincino che lo dà a Grillo in default. Tu qualsiasi, no, siamo anche default. Il 15 agosto. No, dammi un'altra chance e io lo darò a qualcun altro. Ma oggi non si può fare diversamente. Non si può. E va bene, sappiamo a chi si riferisce il suo miglior amico. Allora, cari signori, vi devo salutare, vi devo ringraziare. Carlo Rienzi, poi non abbiamo parlato della Fiat, vabbè, ma che fate, ricorso lì? Tanto viaggiamo tutti su macchine truccate. Ma adesso non è detto, adesso andiamo a vedere. Anche Calenda, ministro dello sviluppo economico, se l'è presa con i tedeschi, pensino a Volkswagen loro. E vabbè, siamo a queste diatribe. Ci fermiamo qui, dai, ringraziando Chiara Geloni e Carlo Rienzi. Ci ritroviamo dopo il giornale radio per la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, che la 194esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. La lettura dei giornali, reduci da una nottata un po' così, soprattutto Peter Bescapelli, lo si legge in faccia, anche Lorenzo Nespoli. Anche il sottoscritto ringrazio, perché non sono riuscito a farlo personalmente, tutti coloro che sono intervenuti ieri al Teatro Manzoni di Milano. Grande successo, sono contento e spero si siano divertiti anche coloro che abbiamo portato a teatro con 10 biglietti omaggio. Lo faremo magari anche il 5 febbraio. Comunque, prossima data, 5 febbraio, sempre domenica sera. Peter, questo è il momento degli applausoni. Vabbè, ma adesso voglio dire, hai perso l'attimo. 5 febbraio, domenica sera. Oh, eccoci qua. Va bene, dai, è il momento della rassegna stampa. Andiamo a sfogliarli questi giornali. Patti Ciari, amicizia lunga. Ci siamo. Tra un po' rottameremo anche lui, Donald Trump. Lunedì 16 gennaio, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore e il sondaggio IPR Marketing Sole 24 Ore sull'indice del gradimento per sindaci e governatori. Sindaci, consensi in frenata è il titolo di apertura. Qual è il politico locale più apprezzato? È Chiara Appendino, sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle, poi Nardella a Firenze del Partito Democratico e Pizzarotti, ex Movimento 5 Stelle, a Parma. Vedremo i governatori, comunque in testa c'è Zaia del Veneto. Poi questa apertura per il Corriere della Sera e Repubblica. Chi chiede asilo dovrà lavorare. Nuove regole per i profughi. Così il Corriere, anche il Messaggero, non Repubblica, il Messaggero. Migranti, asilo solo a chi lavora. Repubblica invece apre: ed è l'unica che ha questa notizia. L'Unione Europea ultimatum all'Italia, manovra da 3,4 miliardi. Moscovici dice rischiate la procedura di infrazione sul deficit e si parla di questa trattativa partita con Padoan. Anche la Stampa, una notizia economica non buona per l'Italia, crescita e sviluppo, Italia bocciata, il rapporto alla vigilia del vertice di Davos, siamo al 27° posto su 30 paesi esaminati. In tutto questo Libero, i favori del Montepaschi, soldi ad amici e mogli. Montepaschi ha finanziato la signora Mussari, cioè l'ex numero uno del Montepaschi, anche dopo che il marito si è dovuto dimettere dall'istituto. Mentre il grido di dolore del Fatto Quotidiano è i dimenticati del terremoto da Amatrice a Norcia, noi soli tra neve e macerie. Parto però dalla scuola. È la seconda settimana che a lunedì Gian Antonio Stella pubblica un dossier di Tutto Scuola, tuttoscuola.com, ed è un dossier che sicuramente fa scalpore. La scorsa settimana si parlava della mobilità degli insegnanti, per usare un eufemismo, il fatto che molti allievi cambiano insegnanti, anche quest'anno, cioè anche questa settimana, però sul tema insegnanti di sostegno. Un alunno su due cambia prof di sostegno. Si chiede, Gian Antonio Stella, prima pagina del Corriere della Sera, vengono prima i diritti degli alunni disabili o gli interessi dei docenti fuori piazza? Domanda ustionante, ma va fatta. È accettabile che il 43% degli scolari più fragili sia scosso dal trasloco dell'insegnante di sostegno? Che i 15 bambini autistici o down di una scuola d'infanzia laziale vedano ruotare in 3 mesi 27 supplenti? O che 18 su 18 dei maestri e professori specializzati nominati in un altro istituto diano buca, obbligando il dirigente a prendere supplenti magari volenterosi ma ignari della materia? Il nuovo dossier di tuttoscuola.com, da oggi online, è ancora più duro di quello sulla folle giostra di docenti anticipato dal Corriere la settimana scorsa. Perché quel tourbillon destabilizzante di 250.000 insegnanti per 2 milioni e mezzo di bimbi, adolescenti e ragazzi colpiti da qualche sostituzione era perfino meno grave dell'ultimo rapporto che parla di tsunami. Dicono i numeri elaborati dalla rivista di Giovanni Vinciguerra che nelle scuole italiane ci sono oggi 233.000 alunni disabili che sulla carta possono contare tra stabile e in deroga su 137.501 docenti di sostegno, un costo per lo Stato, oltre 5 miliardi l'anno di soli stipendi. Ebbene, 60.000 di quei docenti negli ultimi 3 mesi hanno cambiato posto e in automatico oltre 100.000 su 233.000 alunni hanno perso il loro punto di riferimento. Potrebbero essere quei docenti il fiore all'occhiello della nostra scuola. Potrebbero, se troppo spesso il sostegno non fosse visto come uno dei comparti del postificio scolastico. Lo conferma una tabella del dossier Tutto Scuola, dove si spiega che gli alunni con disabilità al mezzogiorno sono 89.412 contro i 96.163 del nord, ma possono contare su 11.000 docenti di sostegno in più. E poi, insomma, si va avanti con i numeri. Il costo di 5 miliardi di soli stipendi sono, pensate, gli insegnanti di sostegno più dei carabinieri, sono il doppio dei medici. D'altronde servono, ma lo spostamento e la giostra degli insegnanti di sostegno colpisce la metà degli studenti. E trovate tutti i dettagli, appunto, su questo dossier scuola. Prima pagina e poi pagina 5 del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella. Dicevo invece che l'apertura del Sole è dedicata alle classifiche, le trovate, chi sono i sindaci più apprezzati, chi sono i governatori più apprezzati, ogni anno il Sole 24 ore con i PR Marketing dà questa classifica, vince allora Chiara Appendino, Torino, Movimento 5 Stelle col 62% di indice di gradimento, davanti al 61% Dario Nardella, sindaco del PD di Firenze, e Federico Pizzarotti al 60,5% al terzo posto a Parma. C'è da dire che invece in coda per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle la Raggi, Roma a indice di gradimento molto basso. Comunque diciamo che al primo posto è appunto Torino, Firenze, Parma, poi Latina, Salerno, Lecce, Venezia, Fermo, Napoli, quindi Napoli anche dei Magistris tra i primi posti, Rieti, Monza, Bergamo, Benevento, poi vedete tutta la classifica, adesso non è che ve le devo raccontare tutti i 104 comuni, sta di fatto che invece Roma, dov'è, mamma mia, si continua a scendere, dove diamine è? Vabbè, insomma, diciamo che Sala, Milano, è al 30° posto, quindi non molto alto, ma Roma è anche più bassa. Certo, vai a trovarla, oh, mi è scomparsa Roma. E dire che, insomma, Roma è abbastanza grande, dovrei vederla, abbastanza... Vabbè, insomma, non riesco a trovare Roma. Comunque, dal titolo... molto molto in basso, chiederemo a Mauro Meazza, che sa tutto di Roma, grande esperto di Roma. Mentre per quel che riguarda i governatori, pagina 2 del Sole 24 Ore, è Luca Zaia del Veneto che è in testa come indice di gradimento al 50,1%, davanti al 48% di gradimento tra coloro che sono stati intervistati, Enrico Rossi al secondo posto, poi Roberto Maroni terzo posto per il centrodestra, per la Lega in Lombardia, quindi Sergio Chiamparino, Bonaccini, alla fine si scende ultimo in classifica, sono le due Sicilie, le due isole, Sardegna, Francesco Pigliaru, e Sicilia, Rosario Crocetta, sono gli ultimi due posti per quel che riguarda l'indice di gradimento. Oh, qui avevamo l'avvocato Rienzi prima, che ha un po' smontato la notizia, che in realtà è la notizia di apertura del giorno, che potrebbe essere una notizia buona per tutti gli automobilisti, per me un po' meno buona. Adesso andiamo a vedere di che si tratta. È l'apertura del giorno e riguarda, allora, il titolo di prima pagina del giorno è questo: Tutor, cioè il sistema Tutor di controllo della velocità, la multa è un bluff. Pagina 2-3 del giorno, quei tutor fuori legge, multe da cestinare. Si racconta la storia di una multa presa per 160 km di velocità sulla A1, anzi più di 160, tra i 160 e i 170. Multa presa da Angelo Scavone, 61 anni, avvocato bolognese, ex assessore al traffico, tra l'altro, che ha fatto ricorso. Ha fatto ricorso perché? Perché gli strumenti che hanno rilevato questa velocità devono essere tarati, e ha avuto ragione, il giudice di pace gli ha dato ragione. E lui fa anche un'intervista, rilascia un'intervista a Rita Bartolomei del Giorno e dice: non ho fatto intenzionalmente questa velocità, non me ne sono accorto. Che vuol dire non me ne sono accorto? Perché io sinceramente... non è che sono molto d'accordo su questa idea di dire vado a 170, poi faccio il ricorso, perché tanto c'è sempre il cavillo, c'è la burocrazia, c'è sempre un giudice che mi dà ragione. Il principio, dice l'avvocato Scavone, è... va bene che la legalità non deve guardare solo i cittadini, ma deve riguardare anche la pubblica amministrazione, che deve rispettare la legge. Invece lo Stato confida sui costi del ricorso, perché questa è anche la questione. Lui dice: fare ricorso non conviene, conviene a me che sono avvocato, lo dice chiaramente, ma invece per un cittadino normale spenderebbe meno pagando la multa di 136 euro. A me è arrivato, ecco, a me però dà un po' fastidio questa idea. È vero, è vero, è sacrosanto che anche lo Stato, soprattutto lo Stato, deve rispettare la legge, soprattutto lo Stato. Ma questa idea che io andavo a 170, però anche lo Stato sbaglia e quindi in nome di due sbagli io non pago la multa e faccio ricorso, un po' mi sta qui sul gozzo. Cioè, rimane il fatto che è andato a 170 km all'ora, magari mettendo in... scarsa sicurezza anche tutti quelli che gli stavano attorno, rimane questo fatto, sì o no? Sì, è un dato di fatto incontestabile. E vabbè, però l'Italia è il paese del ma lo fa anche l'altro e quindi si può fare, ma anche lo Stato non rispetta la legge e allora io faccio ricorso legittimamente e vinco. E allora andiamo avanti così. Intanto l'articolo che mi fa pinzore della giornata non è questo, l'articolo da Mani sul Volante, anche se col tutor ci stava bene, ma è questo: se siete alla guida, mi raccomando, mani ben strette sul volante, perché io non vi ripago se date i pugni al volante e il vostro accessorio da automobile. l'impiegata modello che diventa furbetta del cartellino. Succede alla regione Lombardia, dove, racconta Simona Ravizza sul Corriere della Sera, una pensionata, una quasi pensionata, impiegata modello per anni, Licia Bozzarelli, stimatissima, a 2 anni dalla pensione ha cominciato a falsificare tutti gli orari di lavoro. A un certo punto è riuscita ad arrivare a falsificare 14 ore e 45 di straordinario un solo giorno, perché aveva il codice 64 servizio esterno, cioè quel codice che permette di essere fuori ufficio per questioni di lavoro e autocertificarsi gli orari di lavoro. Insomma, il 1 febbraio avrebbe falsificato un orario di lavoro di 14 ore e 45 minuti. E che, insomma, stato il dato di fatto che l'impiegata modello che diventa furbetto a 2 anni dalla pensione cominciando a falsificare gli orari, risultato, è stata licenziata dalla regione Lombardia. Agghiacciante quello che dicono! È una vergogna! State ascoltando un programma offerto da... Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Alessandro Milan, quello che mi risolleva il morale prima del compito di greco. Bene, bene, l'importante però è avere anche un po' studiato, cara amica mia, e adesso subito a fare il compito di greco e prendere un bel 9. Allora, devo dire che Roma è al posto numero 103, effettivamente, nell'indice di gradimento poi per la classifica del Sole 24 Ore, come mi suggerisce un ascoltatore molto attento, avrà già letto il Sole. Bene, 103, cioè al penultimo posto per Virginia Raggi. E va bene, allora salterei subito su Repubblica, perché a Repubblica c'è una notizia, su Repubblica in prima pagina, e riguarda l'annosa questione della battaglia anche verbale tra l'Unione Europea e l'Italia per quel che riguarda i conti pubblici italiani dopo la manovra, perché Repubblica titola così: Unione Europea ultimatum all'Italia, serve una manovra da 3,4 miliardi. Alberto D'Argenio firma questo lungo editoriale, anche notizia esclusiva per Repubblica. Il discorso era rimasto in sospeso, ma ora Bruxelles chiama. In tempi brevi il governo italiano deve aggiustare i conti pubblici. Servono 3,4 miliardi di euro, una manovra bis che vale lo 0,2% del prodotto interno lordo. Una richiesta piombata su Roma giusto la scorsa settimana. E questa volta l'esecutivo non può più rinviare, dovrà mettere mani al portafoglio, anche perché in caso contrario è pronta una procedura di infrazione per deficit eccessivo a carico dell'Italia per il mancato rispetto della regola del debito. Racconta Alberto D'Argenio che quello che diversi dirigenti europei hanno battezzato il conto di Renzi deve essere pagato. Si attende una manovra aggiuntiva chiamata ad aggiustare il deficit strutturale di circa 3,4 miliardi. A Roma lo sanno, il negoziato riservato tra Padoan e Moscovici per ridurre l'entità della manovra bis è già partito. Ma il governo è consapevole che questa volta la correzione dovrà esserci e più di tanto il conto non potrà essere ridotto. Signori, tocca pagare! Questa è la notizia. Almeno Repubblica assicura in prima pagina, poi articolo che continua pagina 2 e 3, tocca mettere mano al portafoglio. Io i soliti 2 eurini li ho qui pronti, quest'anno non li ho ancora versati, potrei versarli al 16 di gennaio per la causa e via, non se ne parli più fino al 2018. Di più, come al solito, se possibile, non vorrei mettere. Oh, se da Repubblica passiamo in prima pagina sulla Stampa, non è che vadano molto meglio le cose, perché Alessandro Barbera firma un articolo proprio, tra l'altro, alla vigilia del World Economic Forum a Davos. Ebbene, c'è un rapporto. È un rapporto che è un po' impietoso per il nostro paese. Immaginate una classifica. Una classifica dei 30 paesi più ricchi del mondo, con cui misurare insieme qualità delle istruzioni, opportunità d'impresa, sicurezza sociale. Ecco, l'ha fatta il World Economic Forum e l'Italia ne esce male. Su 30 posizioni siamo 27esimi. La classifica è il trionfo di quelle che una volta chiamavamo le socialdemocrazie nordiche. Perché? Chi è che trionfa? Trionfano Norvegia, Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Danimarca, Svezia. Oggi quei paesi vincono per ragioni in parte diverse da quelle che negli anni 70 e 80 erano un modello. Non solo perché si tratta di paesi con ancora i migliori standard di sicurezza sociale, ma perché nel frattempo sono diventate economie dinamiche in grado di attrarre capitali esteri. E dunque, a eccezione di Australia e Nuova Zelanda, che sono ottavi e noni, i primi 12 paesi col miglior mix di sviluppo imprenditoriale e sicurezza sociale sono tutti a nord delle Alpi in Europa. E li ho citati proprio in quest'ordine: prima Norvegia, poi Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Australia, Nuova Zelanda, Austria, Finlandia, Irlanda, Germania, la Corea del Sud, ovviamente, Canada, Belgio, Slovacchia, Francia, tutti. Poi si arriva alla fine all'Italia. Il capitolo dedicato all'Italia, racconta la stampa, è un concentrato di problemi noti, fatta eccezione per alcuni parametri. Il bel paese risulta molto spesso in coda alla classifica. Siamo 29esimi per servizi di base e infrastrutture, 28esimi per corruzione, 29esimi in imprenditorialità e intermediazione finanziaria. Talvolta ci sono contraddizioni, per esempio nel caso della scuola siamo 14esimi per diritto all'accesso, ma 28esimi per qualità della scuola. Oppure alla voce occupazione, 29esimi in produttività, ma noni in compensazioni salariali e non. Detta, insomma, in una battuta, l'Italia non è un gran posto dove aprire un'impresa, ma i diritti di chi lavora sono piuttosto tutelati. Così via, siamo 27esimi in questa classifica. E va bene, in tutto questo c'è un'altra classifica che mi ha colpito. È una classifica elaborata da Oxfam, che combatte le disuguaglianze, la fame nel mondo, e che sbatte in faccia, bisogna nel caso proprio dirlo così, questo dato che è abbastanza impressionante. Non bisogna fare populismi, ma quando si legge che ci sono al mondo 8 persone, non 8.000, non 80.000, non neanche 800, neanche 80, ma 8 persone che da sole guadagnano quanto la metà della popolazione più povera del globo. Cioè guadagnano come 3 miliardi e 600 milioni di persone. 8 persone a fronte di 3 miliardi e 600 milioni di persone. Chi sono? Bill Gates, Amancio Ortega, Bill Gates 75 miliardi, l'uomo più ricco del mondo, fondatore di Microsoft, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, quello di Facebook, Larry Ellison, Michael Bloomberg. Queste sono le 8 persone e Oxfam ha in qualche modo insomma posto l'attenzione su le diseguaglianze, le disparità, le differenze tra patrimoni di alcuni e i risparmi piccoli e grandi di tanti, le differenze sul reddito. Per carità, non è che la risposta sia tutti dobbiamo guadagnare allo stesso modo, la risposta non è stata certo il comunismo, però è un dato questo che fa abbastanza impressione. I miliardari e le multinazionali, anche per quel che riguarda l'Italia, in Italia 7 persone guadagnano come il 30% della popolazione. Questi sono i dati certamente impressionanti. Vabbè, giornate di classifiche, giornate di dati. Siamo qui con Mauro Meazza, che è reduce dal grande successo anche lui al Teatro Manzoni. Caro Mauro, dov'è la voce? Ah, caro Alessandro, buongiorno. L'ho vista ieri sera a teatro, sì. Volevo farle i complimenti. Alla voce? La voce, certamente. Ah no, pensavo avessi perché? Visto la voce, volessi fare i complimenti alla voce. No, l'ho vista ieri sera, dico, ho visto te. Hai pagato il biglietto tu e tutti i chapter 11? Certamente, sì. Come ci è stato ordinato, noi ci siamo presentati alla biglietteria e abbiamo versato il biglietto. Che si fa per campare? Allora, è lunedì, sì. e quindi come ogni lunedì, caro Alessandro, andiamo ad esprimere i contenuti del Sole 24 Ore, alcuni di essi naturalmente, in endecasillabi, con il tuo permesso. Prego. Per questa settimana che si inizia lo Sol 24 Ore ha domandato se il sindaco si mosse con perizia e se il governatore si è ben portato. Sondaggio fu tra gruppi di elettori per poi classificare lo consenso e in questo constatar chi è dentro o fuori applausi ne verranno oppur dissenso. Controlli, ognun che porta il dolce gioco di amministrare lì con cittadini, se coi colleghi d'ogni capoluogo trovò conferme oppure solo spini. Ma lascia la politica ai suoi attori, che di parlam d'affitti e di pensioni, e poi dei tribunali dei minori e della scuola con le sue iscrizioni. All'ape, non nel senso dell'insetto, ti guiderà l'esperto che risponde per quell'anticipar che è più diletto a chi non porta più le chiome bionde. Tu che le porti ancora, caro Alino, non tormentar però lo ciuffo tuo sì artistico, se non vi andasse bene col Torino. Comunque, auguri e adesso tocca al traffico! Alessandro Milan, la Fiorentina dell'informazione. Beh, dai, va bene, oggi va bene così. Allora, c'era una notizia per quel che riguarda l'immigrazione, è la notizia data con maggior rilievo dal Corriere della Sera e dal Messaggero. Il Corriere della Sera di fatto ci apre e chi chiede asilo dovrà lavorare. Questa è la notizia, in estrema sintesi, il titolo di prima pagina, Fiorenza Sarzanini racconta pagina 2, chi arriva in Italia e chiede asilo dovrà svolgere lavori socialmente utili in attesa di ottenere risposta all'istanza. È una delle novità più importanti del pacchetto di nuove misure in materia di immigrazione che sarà illustrata mercoledì dal ministro all'interno Marco Minniti al ritorno della sua missione in Germania proprio per discutere di una linea comune in sede europea. Sono un insieme di regole che hanno l'obiettivo di marcare il doppio binario tra profughi e irregolari. Si affiancheranno a due proposte legislative sulle quali spetterà alle Camere pronunciarsi. Però il tema è questo: oltre ai 20 centri di identificazione e espulsione, uno per regione per 100 posti l'uno, questa è la novità più importante. Lavori utili oppure stage nelle aziende. Insomma, contrariamente a quello che succede ora, e cioè la persona che fa una domanda per status di rifugiato non può lavorare tante volte tra corsi, ricorsi, ricorsi in tribunale, la domanda pende 1-2 anni e durante questi 2 anni anche la dignità di una persona dov'è? Quella di rimanere parcheggiato dal giorno, tutto il giorno a non fare niente. Invece la novità è che si vorrebbe metterli a lavorare e mi sembra una cosa assolutamente giusta, ma anche, se è vero che il lavoro nobilita l'uomo, anche per le persone che in qualche modo si sentono utili nel fare qualcosa. Il quotidiano Libero continua invece nella questione Montepaschi e nella campagna per cercare di sapere i nomi di chi ha ottenuto fondi da una banca che di fatto è stata salvata anche ai contributi pubblici. E oggi il titolo di Libero di prima pagina è Soldi ad amici e mogli, e ci si concentra soprattutto nello specifico nella moglie di Mussari, colui che ha guidato Montepaschi, Giuseppe Mussari. Anche dopo l'esplosione dello scandalo Montepaschi, racconta Franco Bechis, vice direttore di Libero in prima pagina, dopo le dimissioni dell'ex presidente della banca senese Mussari, dopo le sue doppie dimissioni dalla guida dell'istituto e dell'ABI, anche dopo l'apertura dell'indagine giudiziaria durante il processo, che a fine ottobre si sarebbe concluso in primo grado con la sua condanna a 3 anni e 6 mesi e 5 di interdizione dai pubblici uffici, anche insomma in questo periodo il Montepaschi ha concesso un nuovo finanziamento alla sua famiglia a vantaggio della moglie Luisa Stasi, 500.000 euro di finanza fresca concessa all'Hotel Italia Spa di Siena, controllato al 98,64% dalla signora Mussari. La generosità della banca senese, all'epoca presieduta da Profumo, è riuscita quindi a superare ogni possibile imbarazzo per una vicenda che aveva creato già molte polemiche sulla stampa un anno prima che fosse concesso quel finanziamento. Io, insomma, mi pongo sempre nei panni di colui o colei che va in una filiale del Montepaschi, in questo caso, a chiedere un mutuo, magari 20.000 euro, una linea di credito per portare avanti un'azienda, per portare avanti una piccola impresa, per pagare le tasse, per chiedere un mutuo, per fare qualcosa, e magari si sente dire no, il suo profilo non... no, mi spiace. E poi legge queste notizie. Tra l'altro c'è, se uno gira pagina, pagina 4, sempre su Libero, l'intervista ad Antonio Patuelli, che ha lanciato l'idea della lista pubblica dei primi 100 debitori delle banche salvate con intervento pubblico, una cosa che ha monopolizzato di fatto il dibattito. Si indaghi anche sui banchieri, parola di banchiere, questo è il titolo dell'intervista di Francesco De Dominicis che parla con il presidente dell'ABI. Allora, c'è la politica, Renzi è tornato, ieri intervista a Repubblica con l'ex direttore Ezio Mauro, oggi Stefano Cappellini, sempre su Repubblica, intervista a Bersani che gli fa il controcanto, così si va a sbattere, insomma il solito dibattito politico all'interno del Partito Democratico. Oggi lo salto a piè pari, abbiate pietà di me. Vi voglio segnalare invece in questi tre minuti altri articoli che mi sembrano più interessanti. Cronaca, esce il nuovo libro di Emiliano Fittipaldi, si intitola Lussuria, esce il 19 gennaio, dunque tra tre giorni, per Feltrinelli, il nuovo libro inchiesta del giornalista dopo Avarizia, no? Il caso del Vaticano. E anche in questo caso Lussuria, Fittipaldi si concentra sulla Chiesa e, come si può evincere dal titolo, parla di scandali sessuali. Ecco i 200 preti pedofili d'Italia, lo scandalo che imbarazza la Curia. L'anticipazione su Repubblica, mettendo sotto la lente l'ingrandimento cronache di provincia degli ultimi mesi, scrive Fittipaldi, ecco alcuni casi. In Calabria, Don Antonello Tropea, già padre spirituale al seminario di Oppido Mamertina, nel marzo 2015 viene trovato dalla polizia in un'auto con un 17enne conosciuto in una app per incontri gay. 20 euro il costo della prestazione. Indagato per prostituzione minorile, il Don continua a fare il prete. Sempre in Calabria, Locri, c'è il vescovo Francesco Oliva. È lui che nel 2015 manda in una parrocchia a Civitavecchia un suo sacerdote, Don Francesco Rutigliano, che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha in passato sospeso per 4 anni per abuso di minore. A Ostuni c'è Franco Legrottaglie, condannato nel 2000 per atti di libidine violenta su 2 ragazzine, mai sfiorato da processi canonici. A Catania, un sacerdote che ad agosto 2016, già sospeso dalla Curia, avrebbe minacciato con un coltello alla schiena un 15enne, costringendola a rapporti sessuali. Ce ne sono altri casi. Quella che Fittipaldi definisce la lista della vergogna è un libro certamente che farà ancora discutere. Lo faccio vedere anche sul mio profilo Facebook. Siamo in diretta sul mio profilo pubblico Facebook. Eccoci qua. Poi, per quel che riguarda la cronaca, beh, c'è una polemica a Forlì. C'è una polemica perché arriva Saviano e un preside di un liceo a Forlì ha mandato una circolare con la quale ha imposto l'acquisto del libro Ultimo di Saviano a tutti gli studenti. Insomma, ha detto devono essere preparati, ma ha fatto discutere questa circolare al liceo classico Morgagni di Forlì, perché agli studenti di quarta e quinta, con una circolare datata venerdì 13 gennaio e pubblicata sul sito dell'istituto, sul sito internet, l'adesione deve riguardare l'intera classe. Insomma, avete da comprare il libro di Saviano. Questo è, c'è la polemica, boicottaggi, la Lega che minaccia, mamma mia, polemica che finirà tra 2 giorni. Chiude invece il Circo Barnum. Ma quante volte si è detto ma sei un Circo Barnum? A 146 anni di storia, su tutti i giornali dedicato una pagina al Corriere, ma vari giornali, la chiusura del Circo Barnum. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccola qui, Daniela Ranieri, che il lunedì ci regala la frenesia social, perché siamo perennemente connessi, la nostra privacy, i nostri selfie, il fantasma igienico della iperconnessione. Ma chi se ne frega!